dici? Che tu dici? Hola, CQ, attenzione, canale 10. CQ, c'è qualcuno in ascolto? CQ, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Cosa c'è? Ciao Luca, buonasera. Dici pure, cosa c'è? E cosa vuoi che ci sia? Non pensavo se mi chiamato per qualche controllo. E cosa, come sto uscendo? Bene, bene. Hai rimesso tutto come prima? L'ha tornata a mettere a posto l'antenna il tipo. Boh, se ne è accorta mia moglie. Meglio così. Lui ha detto che apre la bottola e la mettiamo sul tetto. Dipiremo che sia così. Perché bisogna passare per forza a casa sua, così è. E allora, per forza, ha detto che la mettiamo sul tetto. Deve essere traccato. Bisogna trovare un punto di ancoraggio, certo, e magari poi non li fai più neanche ti vuoi. E no, perché rimane più in alto, poi l'antenna gli dico di metterla sotto il palo mio, molto ci vuole. Vabbè, quando li viaggi siamo pronti. Sì, a sei bonga comprare due chiaffi come te che si è giubilato ai noghi. Quindi dopo, te, chimico e tutto, piazza. E gli metto il palo quello che c'ho qui sotto, che è bello rigido quello, da un pollice d'ingatto. Ah, è brutta. Mi apri il rigido. Stai uscendo basso in radio però. Basso? E adesso? Avaggia sei tu. Andare. Affittato hai? Sì, ho affittato nel letto, ma sono alzato adesso. Carito, mi faccio battere. Ah, fa cosa di rabbigli con Manuele, abbiamo voluto sapere. Vedi che è un bravo ragazzo, sempre vigile, che è pittina tu puro. Ma è banatteri. Ah, vero è Emanuele, ha detto che sei banatteri. Ah, non risponde, no. Che lo sa che la vuoi dare, che taccia consente. Aspetta che mi sto bevendo una birretta bella croccante, un attimo. Ma adesso ti si bevendi allora? No, la impulla. Allora sì che è croccante. Sì, è bella croccante, deve essere la impulla. Ce l'hai? Sì, non c'è problema, Barugavu. Lì da Guissu e ne aggiungo un pezzettino, quello che ci vuole, già ce l'ho qua, il Regi 213, quello messo ai paloni. Noi che diciamo di Trugavu, no? Se no vivo un patrimonio da sopra ai noghi. Sì. Scusa, questa bottola, come è chiusa? Cartongesso c'ha lui, cosa c'ha sotto? Non lo so cosa ha fatto. E lui c'era la bottola in origine e lui ne l'ha tolta, capito? E ha tappato tutto con i deuri. Avanti si grado Rapuni, boh, cosa vuoi che ti righia? Vediamo cosa fa. E se no c'ho che sei a cavarne l'antenna io. Baino, cosa pensi che compri l'abbaino nuovo per rimontarlo, per salire a mettere l'antenna tu? Secondo me c'ho dei dubbi. Cosa vuoi che ti dica io? La lasci così allora, a me mandavi così. Mi compareggi un televisore, no, ma con noi vai più TV, cazzo, tu le riprendi il TV con l'antenna tua, pure, cioè. Infatti poi è in alto l'antenna, non è in basso, è che c'ha l'antenna di Tavratica a fianco alla mia e deve essere tutto TV, ma chi su cosa ne sogni? Sarà Tavratica, mi sarà 40 anni questa antenna. Ma hai cambiato, non gli avevi messo il tuo un partitore dalla tua antenna, eppure glielo facevi lo stesso. Infatti Nia Giuseppe Andrugavu e Pagisso mi ha fatto lo di petto, Ed. Magari perché pensava di allontanandola che non lo disturbavi più. E invece visto là che ieri mi ha telefonato a vedere se li facevo vedere la televisione. Sì, è un casotto. televisore, a provare a salirlo, se è quello. Un televisore nuovo, vivo. Ma forse avevo un televisore nuovo, chi su va e dove un decoder di 15 anni va, un televisore che gli mancano i colori, va, la che mi appigli che è meglio. Che quando siamo alzati io e Adriano, abbiamo visto questi e ce ne siamo durati ad andare, non gli varremo ancora bene. Ma allora, comprare il televisore nuovo e risolvere il problema. A comprare là e tu me lo compare giù il televisore nuovo. Tu gli dai il tuo allora e tu lo compri nuovo. Io figlio di questi mani non naggio. Ma purtroppo il problema c'è. Chi ce li ha i problemi se li tiene, io non ne ho problemi. Ci metto molto io a staccarne la lanterna, non modulo più, no. Tanto, alla gente che vemi non ne pare manco la bene qua. Ma già si trova, se solo il televisore data lì, con poca spesa, li compri il televisore di seconda mano, a 30 euro gli hanno ciappi di chi si televisore 32 pollici oggi. Ma pure 50 ne avevi peso. Sì, infatti, però prima assicurati che sia quello, no? Per quello ho detto, sali col tuo e lo provi. Se vedi che, sai almeno che quello lì lo risolvi in 448. Il mio è attaccato al muro, non si può togliere. Cazzo, muradura. Muradura, giù. Io l'ho attaccato a una staffa ed è un casino a cavannino. Poi è mano il televisore mio, non è minore. Io c'ho il 32 appeso in cucina con quattro viti, classico braccetto, però c'ha quattro viti, non è che è un casino un bucanino. Divido i quattro viti e il televisore in terra. No, lo mio no, lo mio va proprio la sciaffa da riddu e poi è più manno di 32 bollici. No, è così a cavannino. Senta, per me ci vuole la terretta elettrico. Davvero? E allora? Sì, sempre quattro viti sono nata lì, perché le staffe sono tutte universali. Non viene tassello chimico e i risciaffi. Sono sempre quattro viti, e che magari è più grande, più pesante e tutto. E allora non la giudicava da anch'ivi. Certo. Poi può andare, se lo compare già un televisore, che è un televisore, chi non andava. Allora io non rivolto una striscia, nulla. Hai capito? Se lui si compra il televisore come il mio, anche più piccolo, vedrai che non lo disturbo, perché il televisore che è di quelli. Già un televisore è andato, è di chi di veci, quello decoder di 15 anni fa, gli mancano i colori, voce ambato, vai forza il televisore. Chi su? Un casotto, che se ne ha usato di telefoneggia se mi fa vedere la televisione, cazzo, già non venisci uno, quando entra anche uno devi brusare a chi ti telefoneggia e tu. Ma erano più delle 8, non c'era solo Gianni con me che se ne stava andando. Ho detto, devo chiudere che sto disturbando, l'ha giudito. E cosa cazzo si ha in Chivi? Quando vedo mi telefoneggia già sempre d'aglio quando da dividere un telegiornale o cosa cazzo è. Vabbè, allora è a posto, io a quell'ora infatti sono tutti sorretti. E infatti, anche i due euro che c'ho quella sera. Ma vado a vedere la camera la televisione. Io vieni qua che ti faccio vedere una cosa. Cazzo, mi attacca il cavo, ma fa attaccare. A te sì, a chi tu sei brigido, a chi tu no, a chi tu la giubilatura con la pubblica, attacchi e vi aggiudagliato. Se l'avevo fatto da Riccari a esso. E solo da Riccari, non so che ha santo mamma anteso la lì, che lei ci ha fatto Riccari, cazzo. E perché mi stai pigliando a voi? Ah, perché ti sto pigliando a voi? A chi ne farei di l'antenna? Mi ne è saccato di dirante, l'ha giudito. Ma mi sbatteva nel muro. Ma cosa sei di Zendi? Cazzo, mamma mia. Se perdevo le staffe poco a poco, cazzo, la vivi ciuccio. Cazzo, io l'avevo imparato con la Glocco. Ma da voi mi ero dovuto andare a coso, a... come si chiama? Quella, alla Crucca, me ne dovevo andare dopo. Però se l'avevi imparato con così la pompa era meglio, ero manco di quasi rubo più umano. Cazzo, l'avevi che invato, non c'ha colore, l'avevi che invato. Cazzo, ma non è possibile, no? Cazzo, tu dici che sono guidendi? Io non l'ho mai visto in vita mia. Non l'ho mai visto, Manuè. Una cosa simile, gente, ma cagazzo. E questa è esaurita, questa gente è esaurita proprio. Ehi, da voi mi ha pigliato da Ravona, mi ha pigliato, compreso. Allora oggi la turata lì a come te la prima l'antenna, vai dritta. Ma che cammacca gabbo, sanno di gabbono, è uno che ragiona così, non è sanno di gabbono. Vai, Brigida! Rogne sono. Sono Rogne, ogni voce, capito? Spiega a me, io ce l'ho su lo stesso, adesso mi rompe il coglione, sul tetto. Chi sa della televisione vai sopra che mi studia? Ma quella lì fa lo stesso. Sai che vi burro da voi, Manuele? Quando sarà tutto, sì. Cazzo si può uscire ma cosa paga bruciuti a te, vedo casino. Ah no, no, lui, già sono salita a me, già c'è la moto là, sì. In pratica rimane dove c'è il magazzino mio, dall'altra parte però. Ma dove c'hai la tua soffitta, diciamo? Non ti sei mai salito su? No. In pratica è quando sali su dove c'è il magazzino, rimane sulla sinistra e c'è una moto, la piccola. Ma io c'è un po' di antenna io. In pratica lì c'è la... come si può chiamare? Il cordolo dove puoi attaccare la cava televisiva e metterci qualcos'altro, però io non ci salgo, e lì c'è il tetto della miera, è spiovente lì. Ehi, vabbè, già si camminava a stessi, ma non cannavo, già si camminava a stessi. Capa, Roggio, metto una cosa piccola per non far vedere roba troppo umana, lo sai come te il condominio. Sì, ma cazzo troppo cavo, devo vedere qualche quattro metri di bravo. Cazzo è più cavo che antenna. Bluetooth non l'ho arrivati ancora. Bluetooth non l'ho arrivati ancora. Devi lasciare Bluetooth e la vedi. Cavo normale, vedi. Una cinquantina di euro di cavo, ma non è, cosa vuoi fare? Ma non mi interessa, cazzo mi sono mai in casa, qui oggi sono di riposo, domani mattina ci devo uscire alle 6 a lavorare, anzi prima delle 6, ci devo uscire a Trentino. Così ti fai la bacchina. Cazzo, a Fiume Santo ti gioco domani, a Ucciassone. Ma ci sono i turisti, sono nude. Ma in questo guerra non ne bastano i turisti, e lì è zona militare, cosa tu viste? No, rifiutati allora. Cazzo tu viste, io non entri, no? Ah, vediamo con Natalino a ciappatti, così ti crocchiamo il caffè. Passateci domani, vi do la posizione, vi porta direttamente lì dove sono io. Mettete su Natalino, no, Natalino ha avuto la telefonata di chi dove sarà tutto. Ecco le che te lo cavo di antenna. Non è possibile, no? Fa vedere, ti immagini, ti scuola il telefono, spegni ma a chi? Cazzo che me la giocherà lui, a me lo stesso me lo diceva quando ero da mamma, cazzo roba di vuoi va a zio, cazzo. E poi tu c'avevi 4:40, tanto che scacciaturneco scacciavitati. Ah, non è vero, se non è l'audio, ma che ne scacciavitati. Cazzo scacciavitati. Cazzo vuol dire da buon pugno. Cazzo buoni anni. Tre trimmer, non uno, tre ne buoni anni in più. Cazzo dei trimmer. Cazzo però era bello, dai. Cazzo era bello prima, ma non vedo più nulla. Cazzo uno attacca uno si dava battimento con l'arco. Sì, cazzo da buoni occhi, mi. Eravamo tutti vicini, eravamo, per carità. Tutti attaccati, Gio Maria, cazzo, Gio Maria, Figaro, cazzo, noi eravamo tutti attaccati. Quando vavi da voi non entrava niente. E cosa cazzo intanto non intendiva di nulla, roba da battimento, bigliavano. Lì secondo me anche con delle radio, diciamo, sì, secondo me la distanza era talmente poca che abbattimenti li pigliavano a baffuzza. No, non ti credo, perché io quando sentivo loro che parlavano sempre su 23, io me ne scendevo nei canali di sotto. tu ti bruciavi i ruzzini con te, ti ripigliavi i baffuzzi ai colpi. Ah, beh, lì sì, perché se si vuole ammandare sempre, è normale che le prendevi il colpo, anche se avevi il 4-40. Quello ti sto dicendo, prima... Ma era mentre tutta la gente, cioè, che a te lo buffava, quasi alla buffava di più. Certo, chi te ne voleva l'aria a gente, dai che l'aria a gente. Catalina sta collegando anche all'inquilino. Ah, signor. C'è la foto. Manuel. Te la già vedi? Sono andato a aprire a mia moglie. Che è fatta di trucca? Cazzo, sei andato a collegare lo cavo di antenna? No, no. Già rimani così come in te. Sì, era un po' che la coperta attaccata. Ehi, mi rimango la 2.20. Così come ti do caro spinotto, gatto. Vuoi vedere brinché? Tre belle viande di fare a bordo. Allora, è parito, se cagarete, prendi oggi. Cazzo, ci ha dato la posizione oggi, per capo. Cazzo, si deve uscire tutta la centrale di Massante domani. Capo. Per carità, cazzo, che servizio di merda. Ma quando mai non avevo un riparo, nulla? Allora, riparo, ma giocare il gatto, l'ombrellone, ma domani, lo sdraio, il tavolino. Cazzo, non è possibile. Però se sei dentro non entra nessuna rompitura e balla anch'io. Ma se fuori, allora è un recinto, ma c'è il cancello, non può entrare, non entra nessuno lì. E ci sono queste bobine grandi dove fanno cose degli impianti, no? Delle pale uliche. E non vedo manco una bianca, sono lì. Che brigata. E poi sono già mangiato i gallonberloni, allora non ti accai la tamazzoni, tu manco male, se no ti va a mare, ogni tanto mi si convineva, tanto vicino alla spiaggia. E infatti? Che allora non ti accai la tamazzoni. Ti buono in costume da bagno? E per il zoma mi muovo, gli ho pagato. Magari vieni anche il turista, anch'io, a farti visita. E tu gli dai lo giuccetto, piano piano. Lo giuccetto, io parito di rosso. Magari sono di Luca, gli altri giuccetti. Luca, non entri, no, a difenderti. Che sono da cazzo e fendi, chi su? Sempre vendicoda, sciato. Ah, non c'ha fuglienti, E allora, sempre in c'ha fuglienti, Alcuni addolori, mi sembra che respirava male. Sembra un buon po' che morenti. Ne pare uno che respirava male, cosa ne dici tu, Manuel? Sì, bisogna fare le cose vocali. E beh, Gesù sì. E dopo lo giocetto che tu. Ma è un turbato, deve essere che respira male. Ma qui c'è la... Chi è? Trombato è Natale. Cos'è Trombato Zirani? Intubato Zirani. Si ripira Zirani intubato Zirani. Davvero? Vabbè, Luca, non prepariamo questo impianto. L'impianto si deve di cosa? La macchina. Ma se ho compagio materiale, io direi che lo dia a me, è un lancio di roba. Un pezzo di gaveretti che non andava. Ma no, c'è gaveretti. Ma che cavo devi pure, cavo di colonia? Ci devi mettere il cavo dell'alimentazione, capito? Ci metti un cavo da sì e si è a posto. Ma è troppo fine. È troppo fine, cavo da 10 mm. A me è un cavo da sì, Natale. Da 4 che andava. Un tuo da 6. Ehi, non me lo ricordo da quanto è il mio. C'ha giù butto un fusibile, a chi va vivo lo Iaesu, va vivo. E va vivo l'alimentazione Veda Cruz. Cazzo Iaesu? Ehi, l'857 c'avevo, dava 100 watt quello in macchina. Cazzo. Sì, già lo so, può mettere anche io. Fare in banda, quella era bella lo stesso. bello sì. C'avevo l'unità attaccata dietro il sedile di dietro e, la, e il frontalino davanti. Era bello, era bello. Poi il mio era bello regolato, cazzo, andavo in, qua in 27 e usciva bene. In tutti i posti andava bene il mio. Con quella che c'è adesso, con la c'avevo l'antenna della 27 e lo usavo il 27 e poi c'avevo l'altra per le altre bande, no? Perché c'aveva due attacchi d'antenna. Vai Luca. Sì, ma noi me non li dà 100 watt, cosa siete zenti? Ehi, cazzo non li dà. Ma da laterale magari sì, ma è 50 watt da telegare. Insomma, usciva benissimo. Ah, ma non mi rammento tutto da zia, però dava 100 watt in banda laterale quello lì. Ah, in banda sì, in AM 50 watt già te ne dava. E in AM non lo so quanto ne dava. Cazzo, però c'ha una belva, era bellissimo quell'apparecchio. Io ho avuto anche l'817 della IAS, anche quella era bella. Eh beh, quello è un signor apparecchio, eh. Per fare QRP va benissimo. Quella era bella, cazzo, già una GPS mobile in H, per carità. Sì, tu solo. Oh, io, io. Ora attenzione canale 10, cambio. Avanti. Qui Tattalino. Qui Gianni Caldù. E oggi perché sei così forte? Perché mi sono messo sotto accetto. Ma la te l'hai messa a posto? Io non ho messo niente a posto, l'ha addrizzata al tipo, ha messo tutto a posto lui. Io non ho fatto nulla. Ah, lui te l'ha fatta. Punizione. No, deve essere sul caldo, boh. Sicuramente l'hanno fatto qualche strigliata dai carabinieri. Che ne so, io so solo che mia moglie poco fa mi ha detto che l'antenna è dritta, che l'ha rimessa a posto, dai. E i tiranti, la carì? Tutto a posto ha messo. E manco mai. E non la buttiamo nella la capitura e anche via. No, deve aprire la botola per metterla sul tetto, mi ha detto che deve mettere la botola nuova. Deve aprire la bottola e la mettiamo sul tetto. Se non rubate io l'antenna, biglieni la gavu. Perché adesso non va bene, scusa, se sta andando bene. Io lo so che sta andando bene. Ma chi ci giamba idea ogni addanto, no? Senza di nulla, giamba idea. Ieri mi ha telefonato per esempio che a fargli vedere la televisione e l'ho spento. Ehi. Manco in casa sia abbastanza tranquillo, guarda, si deve decidere, però non è a dire, bisogna fare, non a dire. Ma per il momento va bene così, Natali, non ti preoccupare, tranquillizza. E io già sono tranquillo io, l'importante è che si tranquillizzi lui, che apra la bottola e la mettiamo sul tetto, dopo l'antenna sua la può mettere sotto il palo mio. Io ci metto molto a comprargli due staffe come queste che ho qui sotto. Piazzichissi non ne vara manco, ne vara prima il barazzo. Ma che staffe hai messo, Natali? Due belle staffe ci sono qui sotto. Ne compro altre due uguali e gliele faccio mettere. Così la piazzo sul tetto quando apre la bottola. E ormai non ho bisogno più problemi del rompimento di balle, di nessuno. E dai nocchi dalla facciata ne cavo tutto. E infatti, facciata non è che vada bene, quello sicuro. Però se non ti danno modo di fare altre cose, glielo credo che lo si arrangia come può. Se non puoi salirci sul tetto cosa devi fare uno? Vabbè. Sempre diciamo, Natali, è gente ignorante, non si può parlare con certa gente, la pensano, c'hanno i brigliutti parlando. Sì, dai, arriva, io gli arrivo da Cuba, non mi devo arrabbiare con nessuno, se mi arrabbiato la salì, la ciappato nei ricari, si rubo di cudi da ricari e si faceva un bel mare, chissà che santo mi ha trattenuto qua. Perché poi dalla radio ci passa il torto, non ti conviene. Poi dalla radio è passa il torto, allora ti denuncia, devi pagare tutto gatto. Vigili del fuoco, se ne si sono... dice che non era pericolante, se ne sono andati. Andava, si negagiera qui per ieri ad Eddi, a chi so Eddi, chi sono intervenuti, io era già Maddi, quindi la colpa era di loro, se ne scendeva l'antenna. Ma verbale ti hanno rilasciato? No, ma intanto lo fanno in centrale, il verbale già c'è, non ti preoccupare. Sì, ma dopo di caso di rutare, di ammacco quando gli hanno bruciato la macchina, doveva avere questo verbale dai vigili del fuoco, c'erano lì davano l'assicurazione. Non so quanto ha aspettato, se non pari un mese prima di darmi. Ehi, vabbè, ci mettono quando vogliono, tanto a me non mi si vede un verbale, l'importante è che vi sia un verbale. E intanto nel verbale c'è uno scritto che non era pericolante, quindi tu non ti puoi aggrappare a nulla. Se scrivono che non è pericolante. Ehi, la colpa è di loro se ne scende, perché io li ho chiamati per togliere l'antenna. E gli hanno detto che bisogna vedere esposti ai vigili urbani, come che io disturbo, che questo, che quello, che non la potevano toccare l'antenna, che non compete a loro. Così hanno detto e così hanno fatto, se ne sono andati, per giubareddi. Loro scrivono che non era pericolante. Se ne parava l'antenna, la qui pare ad Eddi, non ha compreso. Che io la responsabilità me la sono scaricata su di loro. Ah, ti hanno detto che c'hai tu esposti. Ma non uno, un bevine, però no, che non si è visto mai nessuno. Una volta sola è giunta le scopposte, hanno visto non di più bave e se ne sono andati. Bobo. E chi è che ti ha fatto questi esposti? La gente del vicinato. Come mai non c'è venuto più nessuno qua a lamentarsi, boh? Oh, yeah. Tutti incontro, direi, che sei saldo, ma per carità. Ma per carità è vero, me non ha giudicato mai così del genere. Non so quante firme avevano messo, però l'antenna è sempre in oggi. Ma infatti. Ehi, anche qua c'era che su guasto di temporale che aveva voleva raccogliere le firme per far mettere l'antenna perché mi disturbava il telefono. Ha messo anche l'articolo sul giornale, però si è firmato la rosa dei 20. Non manco uno misura a Bush. E voleva, è andato in giro per il parco a raccogliere le firme qua, è venuto un maresciallo che abitava qua e mi ha detto. Così e così, questo qua sta facendo, è andato in giro per i palazzi, voleva mettere la firma e io non ne l'ho messo. Gli ho detto di non entrare nel palazzo che non è la zona sua e che praticamente stava facendo una cosa che non doveva fare. E niente, si è allontanato e non c'è più andato, capito? Si è arreso. Sì. Insomma, vediamo un po' cosa vuoi ti dica. Ma l'antenna è dritta. Sì, ma lui aveva messo solo quel pezzo di ferro per allontanarla, per far la scorta, così. Un pezzo di legno ha messo e poi ne ha tolto i tiranti, l'ha slegata praticamente. È per quello che io ho detto che era pericolante. Sì, ma magari se il palo è duro, quell'antenna lì non è pesante, Natali. Se il palo è di quelli belli tosti, non si muove nemmeno tutto a mazzo. E in ogni caso io ho chiamato i vigili del fuoco e ho fatto il mio dovere da bui. Comunque adesso è dritta, non c'è più... Deve essersi appinsato. Sì, hanno fatto cacchina a guardare il gabbo, ma tu dei carabinieri andateci sì. No, io non ci sono mai, una volta l'hanno chiamato, da quanto ho capito da quello che conosce mia moglie, l'ha fatto chiamare e gli avranno detto cosa loro. Che ne so, infatti non mi abitava a Giambava Strada, compreso. Ma va, è Fendero Bravo, quindi forse li conveni. Oh, ci vivono una volta solo, ma chi ve lo va si va a stare in lotta? Oh, ui, per carità. Ma è gente così, è fatta così, è dura. Quello che vogliono le volte è, capito? Quello che vogliono loro vogliono ottenere. Che cosa li vuoi fare a certa gente? Interessante che non ti rompere i capri, ho visto ieri ti ha telefonato di nuovo. Uff, per Italia. Ma che lui mi telefoni, mi sa che è bene, io spengo e basta. Cazzo, l'importante è non venire a rompermi i cazzi. Sì, ma Natali, non è che a te ti può proibire di fare il tuo Uber, non ho capito. Ti telefono e tu spegni, e cosa devi fare il bambino Monello che se gli dà le sculacciure la smette? No, non è così. Non è così che funziona, non lo devi disturbare, è quello che c'è. Se tu lo vedi sul tetto magari non lo disturbi più, mettendo l'antenna sotto, non gli dà più fastidio. E non gli dà più fastidio, no? Se lui me la fa mettere sul tetto, che toglie le tegole e mette la bottola, almeno possiamo salire su. Oh, si è spaventato per quello, perché bottola non ce n'è e lui l'ha coperta abusivamente, capito? A chi io ero burbanda dall'avvocato a denunciare il padrone, a me non me l'ha fatto un cazzo, mi va di fascia tutto, eh. Ma un'uscita dal tetto ci deve essere per obbligo, capito? Ci deve essere per forza. Se succede qualcosa, che magari ne farete qualche antenna, che cosa devono salire per... devi salire per metterla a posto, cosa fai? Devi chiamare i pompieri, perché se no tu non ci puoi salire. Se aggiungai mi c'hai bideggia l'antenna di Concetta, che ne farà den carriera ai nobili, se farà di gado di baro, buru. E me ne sono accorto perché ho sentito il rumore, mi sei cazzo, ho alzato la testa e c'era l'antenna che nella parendi. E non ne farà da intera, ragazzo, si è fatta i mille bezzi, se mi pigliava a capo mi ci abitava. Mare tutto ne farà due, tutto completo. Era pratico, deve essere, magari qualche colpo di vento l'ha fatta scendere. E allora? Cazzo, chi si azzerà sai mi affaranni? Vi sarà 40 anni, vi sarà. Magari era più resistente di quella lì, ha durato un po' di più, però cazzo quella di mia moglie me ne è scesa qui nel vicolo, me. Cazzo mi pigliava a capo, mi ci abitava. Perché vedi, lì è difficile cambiarla, quindi per forza l'ha tenuta tanti anni, perché non c'è modo di salire, cosa va? Io l'antenna la sto vedendo, perché ho comprato l'antenna nuova, ed è nel palazzo a fianco, non è in questo palazzo, perché qui non ci puoi salire sul tetto. Un inquilino del palazzo a fianco me l'ha fatta mettere sul suo palo la mia antenna. Se no io ho televisore, non ne potevo vedere. E cavolo, è dovuto passare da un palazzo all'altro. E per forza. È attaccato a questo palazzo, il palazzo dove ho messo l'antenna. Ah, ho capito. Vabbè. Uno si arrabbia come può. Via. Potevi stare tranquillo, invece a romperti le scatole c'è sempre gente che non si può dire a fare giù. Cosa vuoi che ti dica? Già, cosa vuoi che ti dica? Purtroppo, quando trovi queste persone non puoi fare nulla. Se mi resta dalla bottola, io vuoi piazzare un'altra gabbiciuria e piazzarmi da anch'ivi, non avevo piazzato un villaggio piazzato, no? È più in alto e tutto, anche più bene esce se si è attaccata dove c'è quel gabbiotto sul tetto. Ma quello già resiste il gabbiotto, non è che sia pratico pulviscio? No, ci abita lui lì, è una mansarda mi praticamente il piano di sopra. Ebbene, la casa sua non fa passare. Non fanno, se non c'è modo di uscire al tempo. Non fanno, e lui l'ha chiusa abusivamente, la botola già c'era, perché io l'ho vista quando ci abitava Francesca, quella ragazza, c'era la botola e lui ha chiuso abusivamente tutto e ha messo le tegole, infatti c'è la macchia delle tegole nuove, perché io l'ho vista dal satellite la situazione. Non c'è modo di uscire sul tetto se tu non togli le tegole. Sì, ma lui lo si doveva permettere, di quando cos'è il padrone, no? No, oh, è il muratore che faceva lavori al padrone di casa e l'ha affittata a lui questa mansarda. Ho capito. E se ne si è appropriato di tutto gatto, perché lì non ci vive solo lui, no? Ci vivono anche gli altri. Lui l'ha chiusa per non entrare in casa sua, dice no, non entrare in casa. Ma non ci vive nessuno lì, ci vive solo lui lì. E vabbè. Ma magari la chiusa per sicurezza, capito? Anche se non lo può fare una cosa del genere, ma dove siamo? È che gente che ci fa la legge a voto suo, capito? Non rispetta la legge, non rispetta nulla. Infatti la chiusa abusivamente in uscita al tetto ci vuole per legge, se no tu come cazzo fai a fare manutenzione alle grondaie, al tetto? Non lo puoi fare, se non puoi sino andare a camicciulia, non puoi fare nulla. E per legge ci vuole la bottola, non è che tu cazzo la puoi chiudere abusivamente così come ha fatto lui, no? Magari a tenuto che io lo denunziavo, se non gli vado di fascia tutto, mi a che io rimandavo la lettera là bucandomi. Gioia. E qua già è facile, qua apro una porta e entro tranquillamente, io ho le chiavi fatte abusivamente, perché mi ho fatto prestare la chiave e qui ho fatto la fotocopia, se no dove sta, ogni volta devo andare a dirigere, mangiare storie e questo e quell'altro. Invece come devo salire e prendere acqua? Infatti hai fatto bene, e così è giusto a Franco, quando ti dà la dirigiare batti il doppione, non devi domandare un cazzo a nessuno a giudizio. Sì, perché poi siamo tutti padroni uguali qua, e non è che quello dell'ultimo piano c'ha le chiavi e noi non possiamo avere, quello che della massa dà le chiavi, perché dice che è più vicino a lui e quindi se succede qualche cosa può aprire, capito? E io me l'avevo fatto pensare dicendogli che dovevo regolare l'antenna del televisore perché lo vedevo bene. Quando c'era lui non me l'avrebbe dato, la moglie me l'ha date. Sono andato subito e mi ha giocato un doppio, da me ci ho fatto il cielo di un E va tu bene. Poi è tanto che se non fa il furbo nella vita non ottieni nulla, Natalia. Già visto mi aveva detto, bisogna vedere se rispetta il capo condominio. E poi mi servono le chiavi perché devo piazzare un'antenna. E che tipo d'antenna si tratta? E gli hanno detto, ehi nonno, no, quelle antenne lì bisogna vedere. Se gli altri sono d'accordo, non è questione degli altri sono d'accordo, io pago una tassa, allora si pagava, io pago una tassa e ho diritto come avete diritto voi di mettere quella al televisore, quindi no, non è come dice lì, le chiavi io prima di dargliele lei mi deve fare una richiesta a tutti i condomini e loro devono firmare quanti, tutti con nome devono firmare per acconsentire, lei deve scrivere se che acconsentono all'installazione dell'antenna. E domani lei sta dicendo che sì, se per andare a scopo se vedo se ha problemi interveniamo noi, lei ha il diritto di piazzarla, ma è chiaro e tondo. E infatti il diritto all'antenna lo dice la legge, non è che lo dico io, quindi adesso devi iniziare ben attenti Burumi. Ha visto chi fa, perché loro negandosi la erano contro la legge. Io c'ho tutte le leggi, mi c'ero tutte stampate. Lo so. Adesso vediamo cosa fa, se la apre questa bottola o se la lascia così, che ne so. Vuol dire fare ci passa il mare, magari l'ha detto può far buccare le acque. Basta che l'antenna sia dritta e che non mi provochi problemi, a chi se no i problemi vi li creo io. Io ne la tolgo l'antenna però me la paga, se io ne tolgo questa antenna lui deve fuggire da qua e da Sassari, te lo dico io, perché lui me ne fa togliere l'antenna, va, devi fuggire. E Natali, ma adesso ieri quando ti ha chiamato l'antenna era ancora abbassata, non era drizzata? No, non era drizzata. Quando mi ha chiamato ieri sera che stavamo parlando io e tu, infatti ho chiuso, almeno gli ho fatto vedere la televisione, però erano già tardi, erano già più delle 8. Cazzo, a me quando tutti si innandani e non devi entrare, non mi dà nessun fastidio a ciò danno. Ma magari ieri disturbava perché era piegata, capito? Non è la drizzata ancora, si disturbava per quello. Ah, disturba sempre. Anche quando lui era attaccato all'antenna mia, che lo vedeva bene il televisore, a un certo punto lo disturbavo, perché il televisore suo che vuole buttato via, che c'ha un televisore vecchio che ha tutti i colori che gli mancano, si vede male, poi c'ha anche un decoder di 15 anni fa, ma fini minira, compare già di un televisore nuovo, magari non ti suona nemmeno. Ma grande questa per persona grande di età. E io solo che mezzo scemo non ragiona, ho un carattere di gazzo. E quelli ignoranti sono quelli ignoranti che ragionano a modo loro e basta, non trovano soluzione nelle cose, sono prepotenti, vogliono quello, ottenere quello che vogliono loro con la prepotenza, poi basta. Quando non c'era il baracchino si vedeva bene qua, ti dici non dice scusi di cazzo. Ma da quando non c'era il baracchino ad adesso l'antenna si è invecchiata, gli avrei detto, ma è più vecchia l'antenna, è normale che adesso lo vede. Ah, si viene a giudizio di fare antenna pratica, se io ti disturbo vuol dire c'è l'antenna marcia e te la devi cambiare, la giudizio, già rettondo. Quella di mia moglie me ne c'è in testa, ma cosa si è praticato burro rubaru e ne farà da in carriera a giudizio, più c'è lui così. E non le trae in zucca, così cosa vuoi che ti dica, vuol dire che non so parlare bene l'italiano, io non lo so, non mi capiscono questa gente. E non c'è peggio assurdo di chi non può sentire. Si è già contato la televisione a mezzo vicolo, cazzo. Veramente va via sul robositivo attaccato, era massa, non era la sua. Cosa vuoi dirmi? Ne ho visto di tutti i colori. Uno che aveva l'amplificatore a manetta e sovralimentato, che era diventato incandescente. E da voi bisogna un amplificatore non finire, bisogno. Ma cosa senza amplificatore vi diano a te? Ma io... Gente che cazzo va via la morsettiera mullata e mi è rimasto il capo in mano. Di più ne vuoi, o te ne dico altre? No, già bastano queste. Vabbè, Natale, io già arrivo in basso. E c'è anche il dirimpettaio che lo può dire che era con me quando abbiamo fatto quello di quell'amplificatore che siamo andati io e lui a aggiustarglielo e come mai vedeva bene, meno male che è morto adesso, ma per dire, quando gliel'ho messo a posto io vedeva bene anche se io parlavo. Cazzo, mi è rimasto un po' il capo in mano, se mi sono presenti, di tutti i gurori mi sono capitati. La signora Lucia Roma te si va via il positivo sur attaccato, la massa no, e forse abbigliavano i goipi. E magari lo fanno loro, capito, per non chiamare gente e non ne sanno fare. E così. Sabrina lo stesso era così e gliel'ho messo a posto io, quella dell'altra parte. Cazzo, ma aiuto. Chissà che va forse umano in Chivi, è logico che dopo pigliano colpi, cosa vuoi ti dire? Se l'impianto non è fatto bene, ci sono le antenne vecchie, poi la mia cazzo è di ultima generazione l'antenna, quella proprio per il digitale terrestre, addirittura venivo una sola, va, non venivo né due, io una sola l'antenna venivo. E anche a noi ha messo quella per il digitale terrestre, la Fraccarlo ci ha messo. Ma adesso c'è già un bel pomo, ci sarà già, penso, 6 o 7 anni. E le mie pure sono nuove le antenne. Però per dire, cazzo, aiuto, se non è fatto bene è inutile. A quello lì gli ho messo il partitore io, non lo disturbavo più. A un certo punto dice che ho cominciato a disturbarlo, ma era una cosa vara, lo televisore che si vuole lampando, non fa cosa cazzo, a chi l'antenna mia, come ti mai, se non distribuo il mio, lo televisore non distribuo ma con suo, mi pare ovvio, no? Beh, è certo che è così. Ma a volte sono proprio gli apparecchi che prendono tutte le spugne, capito? Il casino è quello. È quello lì il casino. Infatti quando mi ha detto che lo disturbavo, che ho visto in che condizioni era il televisore e il decode, ha giubilato e ne ha giudicato un capo. Ma vai da dire un'antenna vecchia. E adesso lui come lo sta vedendo il televisore? L'antenna vecchia io gliel'ho tagliato il capo dal partitore mio, perché io l'ho messo sotto qua. Ah, ecco. E quindi per quello anche se sono già davanti alla bicchia cosa pretende che non prenda colpo? No, ma ripigliava pure la mia quando stava vedendo con l'antenna mia, prendeva i colpi, come si spiega? Vuol dire che ero dell'episodio 2 si vuole lampato, se ti sto disturbando e stai vedendo con l'antenna che non disturba, non lo so io. Come mai io vedo bene quando parlo? Boh. Io la tari con l'antenna l'ho avuta, non ho mai dato problemi a nessuno, quindi non è l'antenna, non è l'antenna del baracchino, è proprio dipende da lui. Ah, già lo so, io fino a minire già. Io già lo so che il televisore è suo che ci vuole buttato. Si compra un televisore moderno e si mette l'antenna come si deve, una sua rovini. Se lui apre la botola gliela faccio mettere sotto il palo dell'antenna del baracchino mia. Vai che lui disturbi non ne piglia più. Ma infatti. E già gli stai facendo una grossa cortesia, se no sei un palappaccio. Tanto quell'antenna che a lui ci vuole buttata, perché sarà a marcia. Perché se c'è, quanti anni c'era quella di mia moglie che me ne è scesa in testa, si può dire, vedrai che quell'antenna non serve più. A che marcia? 40 anni, Per quanto durino le antenne, puoi dire quella che abbiamo cambiato noi c'aveva anche il miscelatore aperto, si entrava tutta l'eva, un casino. Infatti. Essendoci un'antenna solo non c'è bisogno manco del miscelatore, di niente. Attacchi un cavo e vai a mai di la televisione. Ecco, è pieno nei bidi. Perché antenna ce ne vuole una sola adesso. Gli attacchi il cavo diretto e stai guardando la televisione. E magari la vedi più bene degli altri pure. Ma quella nostra è centralizzata, capito? Perché c'è il miscelatore, è centralizzata. La centralina c'ha la tua, e poi ci sono due antenne, e quindi per forza ci vuole il miscelatore, oltre alla centralina, per miscelare le due uscite. Adesso, se ci vuole un'antenna solo, non ce ne vuole il miscelatore. Gli attacca il filo diretto e buh, non vivo altro. Il cavo nuovo ce l'ho io, gli lascio questo che gli ho comprato io, che ha già speso più di 50 euro. Appunto. Quindi c'ha anche il cavo nuovo, e di chi dovevano due? E da voi manco zinco bracchi mi ha dato, manco grazie mi ha detto quando l'ha giù fatto il travaglio. Ma dimmi tu, ho comprato il partitore e il cavo e ho speso più di 50 euro. Spaendo, poi la roba tua. Ma per dirti la buona volontà di non rompere le balle a nessuno, a cera. E poi vengono a trattarti in questo modo. Alla fine uno si rompe le scatole. È normale. Non stai facendo vivere tranquillamente le persone così. Perché dove finisce la mia libertà inizia la tua libertà. Quindi non deve rompermi le balle a me. Se io ho un hobby, non può proibirmi di parlare qua. Almeno la verità, io non disturbo nessuno. Parlo tranquillamente, non... Poi da quando ho messo questa antenna ancora di meno. Ma infatti, cazzo, ci vuole anche un po' di rispetto per le persone. Questi non hanno rispetto né niente, sono terra che bruci. Non è che sono terra che la testa, sono ignoranti. Quando è ignorante non discute, non cerca una soluzione, è subito è prepotente e va di brigliuti ragionevoli. Se uno mi ha detto cazzo che hanno vera roba racchino, io vi dico beh, la colpa è tua, mai forza, a prescindere, compreso. E tutti così dicono, anche quando è palato, quando non volevo, dicevo, quando non c'era non c'eri tu col baracchino volevamo bene. E l'ha detto uno, vabbè, lasciamo stare. Addirittura mi ha detto, sicuramente l'è rotta tu apposta l'antenna per cambiarla, capito? Ma io che non vedo canale 5, allora smettete di parlare. E tu cosa vuoi? Antenna in riserva, o dico anche il numero di telefono. Uno la sto cercando di vedere, ma Maria di Filippi è sempre quella cosa importante. Michi non vuole essere sente, chi è? Chi è? Michi non vuole essere sente, buonasera. Arrivederci alle CDB, qua, scendi a Pizzu. Ecco, ma cosa per il cuore. Buonasera a tutti, comunque io vi stavo ascoltando, non lo nego, però sto lavorando nel frattempo. Ehi, ciao Antonio, ben sentito, dai, ciao Cattino. Ciao Antonio, ciao Tino, dai. Ho paura di sopportare il televisore, per quello non sto parlando. Ah, la palla, tanto non mi disturbi che ce l'ho spento. E se no si sarebbe sentito la tarifa. Aspetta un attimo, prova che magari disturbi a me. ti disturbo. Hai fatto passaggio. Ti disturbo anche io. Allora, che io sappia, le antenne, e qua te lo può dire anche Antonio, per proteggerti puoi dire che non ci vuole l'amplificatore di antenna, quindi tu glielo se disturba. Sì, ma ormai lavorano tutte su un'altra frequenza, quindi tu puoi stare anche tutto il giorno attaccato, perché non ci potrai entrare neanche se ti ammazzi. Allora, va bene, dai. A te ho fatto mai quel pezzo che mi serve la televisione in camper invece? Sì, quel pezzo ho fatto dall'altra volta, è che tutte le volte io mi dimentico di portartelo, il problema è quello. È sempre lì, tutte le volte gli dico a Michela, ricordami che quando vado giù in campagna glielo porto a Tina, tu me ne dimentico sempre. Se immagini già, ho speso 200 euro per un connettore, ancora non me l'ha fatto, ok, buh. Ma io di questo connettore c'era da quando l'ho sentito, beh, una volta ha detto che ce l'avevamo messo in macchina, no, da voi non mi sono dimenticato, buh, Antonio non va più gabbo. Vabbè, è cosa devi fare. No, ma tu, disturba lo stesso Natalino, lo so, è un po' difficile che si disturbi cambiando frequenza così, ma lui mi disturba lo stesso. L'ha telefonata anche ieri sera che disturbava. Sì, ma è una cosa che non si spiega già, cioè è inspiegabile, veramente, che con pochi watt tu riesci a entrare nel televisore. Cioè, praticamente la radiofrequenza deve essere libera, cioè deve avere un pezzo di filo, non un'antenna. Sì, probabilmente non sta uscendo con l'antenna, sta uscendo con qualche filo, se l'ha interrotta l'antenna, che ne so. Però qualche problema ce l'ha. E lui, siccome questo qua è degli ignoranti, che non ragiona, c'ha i brillutti, capito, ragionando, è sempre ragione, ce l'hanno loro, quindi non ne vuole sapere di ragionare. Vabbè, tu parti dal presupposto che le persone comunque sanno, a prescindere, sapevano e sanno che comunque il baracchino disturba, a prescindere, che tutti gli altri figli, che non è più così, che non è una potinuta, e quindi poi c'è disturbo, c'è anche un'interruzione casuale dovuta anche alla rete, nulla, sei sempre tu, che ci sia a casa o che non ci sia. Però, ripeto, guarda che per disturbare veramente, cioè devi avere un pezzo di filo collegato al baracchino 10 watt buttato sul tetto così, perché se hai un'antenna stai radiando, difficilmente disturbi. Non lo so Antonio, ma vai a farlo capire a queste persone qua. C'ha un decoder di 15 anni fa, il televisore che gli mancano i colori, era attaccato alla mia antenna che non disturbo. E lo disturbavo attorno, poi ho tagliato il filo, arrangiatela, quell'antenna riccia e vai a vedere la televisione. Non so come ti dica, hai comprato un pacidore, un cavo, manco grazie, ma dito, per i 50 euro che ha già peso. Sulle prime non lo disturbavo, ma poi dici che lo disturbavo, sono cazzato a casa sua, ha giù visto televisore che gli mancano tutti i colori, che deve essere un televisore vecchio, il decoder di 15 anni fa già, e pretende di non pigliare coipi. Ma si cambia il televisore che fa prima, magari mette un pezzo di filo in alto com'è e la vede ugualmente la televisione. Ma non te ne di 40 anni fa, frasinga. Sì, vabbè, vi siete per un attimo natalini, ti sei... Tu hai già ne avete parlato uno sopra l'altro. E qui ci siamo, d'accordo tutto quello che vuoi, se c'è un decoder di 20 anni fa la televisione non la può vedere, perché comunque dall'anno scorso anche da quest'anno è cambiata la piattaforma, quindi non è possibile, ma per forza un decoder nuovo, se no la televisione non la vede. Poi quello che riguarda la televisione, anche se è vecchia, tu puoi avere anche una televisione a tubo cattolico, non c'entra niente, ormai si comanda il decoder. E allora il decoder che non servi. E poi c'è l'antenna marcia pure. Vedi, l'antenna marcia potrebbe essere una componente che potrebbe attirare, però rispetto, io, ma mica ne ho visto, due lineari in campagna, due grossi, 750 watt uno e 750 watt, l'antenna lì attaccata una all'altra, la mando va senza radiali, con media fanculi, il capo buttato in terra, l'antenna bassissima, eppure non li facevo una piega, Natalia. Ma già lo so, ma se il mio non lo disturbo il televisore, ti faccio attaccare l'antenna mia. E tu dici che ti disturba lo stesso, c'è qualcosa che non va. Non lo so, sicuramente è elettrostatico, però non finto di rete. Ma cosa vuoi ti dica? Gli ho tagliato il filo con la forbice perché mi ha rotto le balle. Adesso se la sta guardando con l'antenna marcia che aveva prima. Però vedi, quando si comporta così, scusa già per il parlare, anche Tino, quando si comporta così, Natalia, non si arriva mai a niente. Cioè se ci si allea si riesce a trovare un punto d'incontro, se si fa la guerra sono quelle cose che non finiscono mai. E a Rusogu, ma se è dove comincia? Cazzo, io la buona volontà di risolvere il problema ce l'ho avuta. È lui che non vuole risolvere. Ti capisco, però ripeto, ti capisco, però non è un modo quello di risolvere la situazione. Lo so che magari lui potrebbe essere una di quelle persone cocciute, la più cocciuta del mondo, che vuole avere sempre l'ultima parola lui, però non è così. Cioè tanto non va da nessuna parte, né tu né lui. Li prendi già. E diventa invivibile poi la situazione, perché poi sarà sempre una guerra. E chi dà ragione? Ma quando lui non la vuole capire, se lui avesse fatto qualcosa per risolvere il problema, ma lui parte già dal fatto che quando non c'era il baracchino lui lo vedeva bene, e quindi parte da quel fatto lì. Avanti, ma io mi ricordo quando abitavo la Dolce, che avevo un vicino che mi sentiva nella televisione e aveva il problema del cavo, tant'è vero che ho comprato il cavo, l'ho cambiato e poi dalla televisione mi sentiva più, però mi sentiva nel citofono. Il citofono ha detto no, non te lo cambio, rimane così, cosa vuoi dica? Sì, il citofono tanto quanto, nei citofoni vecchi si riusciva a entrare, perché comunque avevano una concezione e lavoravano in una maniera diversa.